cuando valga la pena buscar pega, en vez de traficar o salvarse robando la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Quando il trasporto pubblico non lo tratte come ganare. Eccoci qui, Jerry, intanto ben trovata un'altra volta insieme. Sì, grazie Marta, grazie come al solito a voi. Allora, io ho fatto una breve infarinatura di quello che è stato l'ultima udienza del processo a Facundo, agli altri compagni, riguardo alla denuncia di Benetton. Così, insomma, poi ne parleremo con più calma. Quella è una questione che richiede molto tempo, perché bisogna leggerla in un modo molto ampio, anche riguardo a quella che è ancora la, tra virgolette, indagine sulla sparizione e morte di Santiago Maldonado, no? Anche lì si fa difficoltà a capire quali, dicevo, con quali meccanismi si muove la giustizia. E invece chiedo a te di aggiornarci un po' qual è la storia, la situazione del MACI Celestino Cordova, visto che l'ultima volta che ne abbiamo parlato, appunto, il MACI era in condizioni abbastanza gravi dopo un lungo sciopero della fame, lo ricordavo, perché richiede questo suo diritto, nonostante la detenzione, di poter praticare la propria spiritualità e poter stare 48 ore in questo territorio, no? Essendo lui un MACI, quindi questo bisogno di tornare in questo territorio e praticare, diciamo, il suo rituale, ricaricare le sue energie. Sì, diciamo che sulla situazione del popolo Mapuche e nel Gualmapu, che è la parte cilena, ci sono successe un po' di cose queste ultime settimane, e una di queste è giustamente quello che dice te sul MACI Celestino Cordova, che è una figura spirituale del popolo Mapuche importantissima per loro. E purtroppo la situazione giudiziale non ha cambiato per niente, e la situazione in quanto alla salute continua a essere molto, molto delicata, nel senso che lui ha portato avanti 105 giorni di sciopero della fame, e in condizioni ovviamente gravissime. E lo Stato cileno aveva detto che gli voleva parlare. E dopo, perché lui ha detto, prima di lui di fare questo sciopero, di prendere questa decisione, lui anche la sua avvocata aveva cercato già 10 volte di dialogare con lo Stato cileno e di intraprendere, diciamo, un dialogo, per dire così, e invece, come questo non è successo mai, e lui ha deciso di fare questo sciopero. Dopo 105 giorni di sciopero, lo Stato cileno le dice: dai, sì, se vuole parlare, per cercare una soluzione, deve abbandonare questo sciopero della fame. E lui l'ha fatto solamente perché c'era la possibilità di parlare e cercare una soluzione, che è quello che lui chiede, essendo una figura spirituale del popolo Mapuche, ed andare per 2 giorni alla sua comunità, al suo regue, che è questo, diciamo, questo spazio spirituale che le permette a lui di rinnovare le energie, di stare in contatto con la terra, no? Con il territorio. E invece non è successo niente, il MACI ha abbandonato questo sciopero, come è stato sollecitato dallo Stato cileno, che dall'inizio ha detto che era una pausa dovuta alla richiesta che era stata fatta, perché non era definitiva. E invece fino ad oggi lo Stato cileno non ha parlato con il MACI. Anzi, ha detto che loro non hanno mai detto di questa proposta di dialogare per trovare una soluzione e concederle il diritto di andare a questo regue, perché alla fine parliamo di un diritto, lui non sta chiedendo un favore, non sta chiedendo un permesso, è un diritto che sta scritto e sancito nella convenzione 169 della OIT, che è la convenzione che protegge i popoli originari come il popolo Mapuche, soprattutto ha una protezione speciale sulle figure ancestrali del popolo Mapuche, come sono il MACI, come sono i Long, no? entre altri. E quindi la situazione, diciamo, che li ferma, perché lo Stato cileno non ha dato soluzione, neanche ha parlato con lui, si è fatto un'altra richiesta in questi giorni. Ma lo Stato cileno non si è fatto sentire per niente. Quindi, di quello che io ho saputo di una delle sue portavoce con chi ho contatti, mi ha detto che se questo va avanti così, il MACI Celestino ha detto che lui riprenderà al più presto lo sciopero della fame, ma in questa volta lo farà come sciopero della fame è secco, quindi non ingerirà neanche i liquidi, e che questa volta ha detto che lo porterà fino in fondo, sperando che ci sia una risposta al suo diritto. E ha detto anche che se questa volta ancora lo Stato cileno dice guarda che parliamo, ovviamente lui non crede più e non si fermerà e non abbandonerà questo sciopero. E quindi questa è la situazione, diciamo, in quanto alla situazione giudiziaria. Tra l'altro, so che ci sono state tantissime mobilitazioni, ci sono giù. Sì, ci sono quasi tutti i giorni, infatti adesso stavo un po' anche aggiornando il nostro Facebook, ci sono mobilitazioni tutti questi giorni, venerdì mattina a Temuco, dove c'è il carcere e dove è stato incarcerato il Maci quasi 5 anni, perché adesso il Maci è all'ospedale del Nuovo Imperial, e lì adesso lo stanno alimentando, diciamo, piano piano. Perché non è facile ovviamente riprendere dopo 105 giorni l'alimentazione normale, la sua salute è sempre delicata, e ci sono anche altre, un sacco di iniziative in giro, concerti, benefit, perché ci sono anche tante spese legali e anche tante spese della famiglia, e anche loro dicono non basta solo lo sostegno delle manifestazioni o il Neuen, come chiamano loro, no? La forza, e purtroppo hanno bisogno anche del sostegno materiale. Così l'ha detto anche Facundo in una lettera che ha scritto al Maci, che dentro di tutte le cose che lui ha scritto, ovviamente riferendosi al popolo Mapuche, ha detto tutti i miei sorelle e fratelli, in questi casi non ci possiamo solo fermare alle cerimonie, no? Alle richieste nostre come Mapuche, ma soprattutto bisogna anche lottare, perché appunto ho insistito molto su questa cosa, che non basta solo pregare per dire pregare, perché è quello che fanno le solite cerimonie, ma soprattutto bisogna lottare. Quindi ha incitato ancora una volta il popolo Mapuche di quelle parti lì a mobilizzarsi ancora di più concretamente, a andare azioni più forte, che danno un segnale di stanchezza contro lo Stato cileno. E questo, diciamo, che è quanto al Maci, che ancora noi vedremo cosa succederà in questi giorni. Certo. Senti, invece poi c'è un altro processo che ha una storia molto lunga e travagliata, che è quello del caso Lusinger Makai. Che ha avuto, appunto, già avviene da anni, di persone che prima si vedono assolvere, poi vedono annullare il proprio processo, qualcuno viene condannato, qualcuno no, non si capisce in ragione di cosa, nel momento in cui poi questo processo viene annullato. Insomma, anche lì la giustizia si muove in un modo piuttosto strano. Si è guadagnata però la soluzione della Maci Francisca Lincolnau, di cui abbiamo parlato spesso, insomma, da più di un anno, appunto, seguiamo tutte le vicende riguardo alla sua carcerazione, la negazione del diritto ai domiciliari, la persecuzione con le leggi antiterrorismo. E quindi ti chiederei di raccontarci, io so che alcuni sono stati assolti, la Maci qualcun altro, qualcuno invece ha subito delle nuove accuse, quindi raccontaci un po'. Sì, mi accollevo subito a questo discorso anche per dire che il Maci Celestino è l'unico imputato. Esatto, per ora. È l'unico che dall'inizio è stato accusato per questo fatto di gennaio del 2013, quindi parliamo di 5 anni di processi, per cui il Maci Celestino è incarcerato da 5 anni, è una condanna di 18 anni, che dall'inizio è stato anche detto che non avrà nessun tipo di beneficio per ridurre o per chiedere qualsiasi agevolazione, per dire così. E dire anche che tutti questi processi, già sia Lusinger Makai, già sia Casa Iglesia, già sia tanti altri casi che fanno in questo momento della parte cilena, sono tutti, diciamo, collegati e hanno il filo in comune di questi montaggi giudiziali, dove non sussistono prove concrete che dimostrano la colpevolezza delle nostre compagne Mapuche, perché tutti questi casi sono sotto l'applicazione della legge antiterrorista, che, lo abbiamo detto tante volte, prevede assurdamente il modo che si possa condannare senza avere le prove, con testimoni incappucciati, con tutte queste tutte queste modalità veramente dittatoriali, che ha lasciato ovviamente Pinochet in questo periodo lì, e che fino a oggi lo ricordiamo chiaramente il fatto che esista ancora la possibilità di applicare la legge antiterrorismo, che tra l'altro il presidente ha deciso anche di dare una sistemata, da quello che ho capito, non di eliminarla, ma anzi nel senso di mantenerla viva ancora nonostante la dittatura non ci sia più, a quanto pare, a quanto dicono, anche se insomma ci sembra un po' strano. Però dicevo, appunto, ci sono questi tre temi principali, che sono il poter essere arrestati in maniera preventiva per più di 2 anni, insomma, e che 3 giudici possono dare il permesso di domiciliari solo pronunciandosi all'unanimità, e che ci si può avvalere anche di testimoni incappucciati. Capite bene che già solo questo, insieme al resto, crea delle condizioni per cui un processo si può basare praticamente sul nulla. Successo non solo nel caso sta succedendo con Facundo, sta succedendo con la Maci Lincolnau, ma che poi porta a delle condanne pesantissime, come appunto quello del Maci Celestino Cordova. Sì, perché in questo caso Lusinger Macai, che ricordiamo è per un incendio un matrimonio di coloni, va avanti per 5 anni, dal 2013 fino ad oggi. Quindi questi imputati, che erano 11, diciamo che anche loro sono stati incarcerati in forma preventiva, in un periodo lungo dove il processo non cominciava mai. Come hai detto tu, anche la Maci ha dovuto affrontare diversi processi in quale lei è stata incarcerata, dopo sono stati concessi degli arresti domiciliari, e così ha fatto avanti e indietro questi 5 anni, no? Adesso è successo che la ultima volta, ottobre 2017, era stata assolta la Maci Francesca Lincolnau con gli altri 11 imputati di questo caso, però 2 mesi dopo la soluzione è stata annullata, perché la famiglia di questo matrimonio, loro anche sono annullati. Ti sento male? Sì. Parlaci un po' più forte. Ti sentivamo piano piano. Adesso? Sì. Sì, ora va bene. E loro hanno chiesto l'annullazione della sentenza in dicembre dell'anno scorso, e quindi si è iniziato per la terza volta, almeno per la Maci, un altro processo, e quindi per la seconda volta ha dovuto affrontare un altro processo di nuovo, pieno di contraddizioni, testimonianze che non era quello che si aveva detto prima, che dopo hanno cambiato nuovamente le versioni, e alla fine dopo diversi mesi, sono passati da gennaio a oggi quasi 5 mesi di processo, e settimana scorsa, sabato, la Maci e Francesca Lincolnau è stata assolta insieme a altri 8 imputati di questi casi. Invece 3 di loro sono stati condannati, sono José Trangal e Luis Trangal e José Peralino, e loro sono stati condannati per atti terroristici. La sentenza per loro ci sarà l'11 giugno. La cosa illogica in tutto questo, che diceva uno degli avvocati, è che come mai non sono state trovate le prove per accusare le altre 8 imputati che sono stati assolti, come non sono state trovate le prove per inculpare queste 3. Come mai non sono stati assolti tutti? Perché alla fine le prove non c'era in contra di nessuno di loro. Quindi parliamo sempre che c'è sicuramente dietro un'insistenza, una richiesta politica, e anche della famiglia dei latifundisti di questo matrimonio, e c'è anche il fatto che la famiglia Trangal è molto conosciuta lì nella zona come una famiglia che è sempre a partecipare in azione di recupero territoriale. È una famiglia molto, molto combattente in questo senso, che loro stanno sempre a partecipare nei processi di terre usurpate delle profondiste dei coloni. Quindi anche questo fatto si pensa che sia il motivo che José Trangal sia stato condannato. Invece l'altro Peralino è uno di quelli che all'inizio del processo aveva dichiarato il falso, firmando delle testimonianze false, già che la PDI, la Polizia di Investigazione del Cile, lo aveva torturato e lo aveva minacciato di morte a lui e alla sua famiglia. Infatti poi lui durante l'udienza ha raccontato questo ed è passato, diciamo, a trovarsi come accusato. Appunto, e lui adesso è uno di quelli che è stato anche condannato, però siamo ancora di fronte alla subida della schifezza di questo sistema giudiziale cileno, che, come hai detto tu prima, continua a applicare una legge antiterrorista dove non hai modo di difenderti, perché non c'è, diciamo, lo stato di diritto qua. C'è una, lo diceva anche il suo avvocato, c'è un lavoro che fa la polizia, tribunale contro il popolo mapuche, quindi partendo tutte da loro è difficile difendersi sotto la legge che loro stessi hanno scritto, loro stessi hanno firmato come stato cileno, esatto. Perché chiaramente non ci sono le prove concrete, non c'è niente che dimostri la sua colpevolezza, invece tre di loro sono ancora in carcere, e questo è un processo che va avanti 5 anni. Adesso quello che so è che questi tre compagni mapuche, la sua difesa legale chiederà l'annullamento della sentenza alla Corte Suprema in Cile, o vediamo come va, se no farà ricorso all'organismo internazionale, al tribunale internazionale, perché veramente qua non c'è niente da condannare, sì, a parte dell'evidente persecuzione politica razzista che sia contro di loro per essere parte del popolo mapuche. Sì, infatti direi che comunque appunto ricordiamo ancora una volta quanto appunto poi tutto questo è semplicemente quel meccanismo che si applica quando uno Stato, un governo, ma insomma mi sembra un po' una storia ricorrente, insomma, quando uno Stato decide di asservirsi completamente a quelle che sono la vendita dei propri territori, comunque, no, come si dice, l'affiliazione con i grandi terratenenti, che nient'altro sono che i grandi marchi, le grandi marche di cui tanto sentiamo parlare. Quindi non bisogna mai prendere questi processi come appunto un paese persecutorio in quanto un governo dittatoriale. Qui c'è qualcosa di diverso, che è una dittatura molto più capitalista, in senso molto più diretto, non che le altre non lo fossero state, ma sicuramente molto più legata alla vicinanza proprio fisica, braccio a braccio, di un Benetton piuttosto che di un Lewis, piuttosto che di un North Face, piuttosto che... E quindi questo bisogna ricordarlo sempre, nel senso che veramente l'asservimento degli governi è totale, e si muove esattamente come abbiamo visto anche l'esempio delle irruzioni nelle comunità con la polizia ufficiale e le forze di sicurezza, no, privata, dei grandi terratenenti. Insomma, è chiaro che è una collusione che storicamente si ripete in situazioni come questa, dove si difendono, si rivendicano i territori per le comunità ampiamente dette, perché poi appunto, ripeto, il lavoro che fanno i Mapuche è un lavoro che difende dei territori di cui usufruiamo tutti, dei polmoni di cui bene o male, insomma, tutti ci prendiamo esempio, e sono territori di tutti e tutte. Quindi insomma è una cosa che bisogna, credo, sempre sottolineare, per non perdersi poi a parlare di giurisprudenza, di strani meccanismi, e scordandosi poi, come diceva Facundo, chi è il nemico reale, no? I nemici sono gli stessi, insomma, Benetton, basta andare a vedere solo quello che combina qua, lo continuiamo a ripetere. Tra l'altro io, insomma, in merito alla rete mi piacerebbe anche che dicessi due cose: stanno succedendo cose molto belle in varie città, come rete veniamo chiamati ormai tantissimo, c'è stata una bellissima iniziativa, una mostra fotografica a Padova, no? Ci vuoi raccontare? Sì. Sì, io faccio, ti racconto questo, ma prima volevo dire anche un'altra cosa, se posso. Ti chiedo, a volte chiedo anche scusa se siamo un po' ripetitive su quello che raccontiamo, perché si sempre, diciamo, ci sono sempre queste dinamiche di persecuzione e dei montaggi giudiziali che noi continuiamo a ripetere, ma che purtroppo sono diventata una quotidianità dentro i processi giudiziali che affronta il popolo Mapuche, perché tutto è, diciamo, accomunato lì, no? E quindi se parliamo di tanti processi, alla fine parliamo dello stesso, che è la stessa criminalizzazione che va a condannare le nostre compagne. E l'ultima cosa, anche te lo volevo dire, del caso Iglesias, che anche alla fine del mese d'aprile, anche loro, dopo un anno e 10 mesi di carcere preventivo, hanno fatto 120 giorni di sciopero della fame, e dei 4 che sono stati accusati dell'incendio a una chiesa evangelica, due di loro sono stati assolti, e invece altre 2 sono state condannate a 10 anni. E ancora una volta, e per quello che chiedo scusa, sono ripetitiva, senza prova, hanno testimoniato, non incappucciate, hanno testimoniato dietro di un, chiedo aiuto in italiano, di un biombo, no? Di questa cosa, non so come si dice in italiano, non erano incappucciate, però l'hanno fatto testimoniare dietro di un, non so, di un pannello, di un schermo, insomma, sì, dietro. E quindi solo questa testimonianza hanno servito per fare che il potere giudiziario cileno accusi, condanni a questi 2 compagni, a Benito e a Paolo Trangol, a 10 anni per incendio con fine terroristico. Cioè, non c'è niente di concreto, non c'è niente di reale in tutto questo. E questa per noi è una vergogna, ancora una volta, di vedere questi 2 ragazzi, perché sono giovanissimi, perché anche li hanno piccato 10 anni effettivi, vuol dire che non possono fare nessun tipo di appello, neanche di beneficio, in caso che si può chiedere, diciamo, la riduzione della pena. E questo per noi è veramente ancora una volta una vergogna totale di un Stato che continua a autonominarsi democratico civile, e non è solamente Piñera, perché qua parliamo di tutti i governi precedenti a Piñera, Bachelet, tutti che si autodenominano democratici, nessuno, perché noi siamo convinti come solidari progressisti, sì, che fino a che questa legge antiterrorista sia in rigore, non c'è niente da fare per chi lotta nel territorio Mapuche, perché sarà sempre questa legge a criminalizzarle di questo modo. E questo volevo solamente aggiungere. No, sì, infatti, mi sembra giusto. Senti, noi chiudiamo però facendo degli auguri di compleanno anche. Sì, no, quello che mi hai detto prima, sì, noi come rete stiamo facendo... Ah, sì, racconta. Sì, voglio anche ringraziare a tutti gli spazi che ci ospitano, che stanno portando come noi avanti informazione, controinformazione e denuncia, controinformazione su quello che veramente succede nel territorio Mapuche, sia in Argentina e in Cile, e denuncia soprattutto in questo paese contro la multinazionale Benetton. Come hai detto te, siamo andati a Padova la settimana scorsa e abbiamo montato questa mostra fotografica bellissima, interessantissima, sul popolo Mapuche, che è un contributo di 2 compagni fotografi del territorio Mapuche, che sarà a Padova dal 5 al 30 maggio, e così come altre iniziative di diffusione, dibattiti che hanno fatto sempre a Padova, a Mestre e in altre città di Milano. E come tu lo sai, mese prossimo torniamo in Puglia e continueremo lì il nostro lavoro di diffusione in una grande iniziativa che sarà dedicata al popolo Mapuche alla fine del mese di giugno. E quindi vedo che piano piano il nostro lavoro, tra virgolette, che stiamo cercando di fare, sta portando veramente un po' di scambi, sì, anche lì relazioni, molto bello, no? Anche questo, sì, perché territori pure che si incontrano, storie di territori. Sì, anche questo, perché anche lì a Padova abbiamo trovato, e lo voglio menzionare, il comitato No Terza Corsia, che è un comitato che anche loro stanno denunciando la devastazione che sta provocando la famiglia Veneto in quattro paesi lì del Veneto, con un allungamento dell'autostrada, è sempre una opera inutile e dannosa. E quindi loro anche stanno lì denunciando la multinazionale Benetton per tutta questa devastazione, con tutto questo danno che stanno facendo alle popolazioni che vivono lì. Quindi anche con loro stiamo facendo anche questa alleanza per denunciare e per creare anche coscienza, perché di far capire agli italiani che Benetton non sta solamente fuori d'Italia a farsi i propri interessi e i propri profitti a costi delle persone, no? Come il territorio Mapuche, come chi lavora in Bangladesh facendo i suoi vestiti in condizioni precarie prendendo lo stipendio di una miseria, sino anche qua in Italia sta combinando delle opere veramente grosse a scalpito delle popolazioni. In questa zona del Veneto, che sono la gran parte di popolazioni agricole che stanno lottando per evitare questo allungamento dell'autostrada. Sì, infatti anche col sud l'abbiamo raccontato, col movimento No Tap, insomma queste sono le cose che veramente mirano al nemico reale, per quanto credo, insomma è veramente la parte che possiamo fare qui, che per quanto poi appunto parlare, ma anche notare le assonanze e le pratiche che si possono veramente scambiare. Io ti ringrazio tantissimo. Io direi che però gli auguri, dobbiamo fare degli auguri. Io voglio fare, intanto facciamo gli auguri a Mariano, che oggi è il suo compleanno, non è venuto. Sì, quindi auguri, Mariano, lo voglio salutare, non è qui, ma insomma è come se ci fosse, lo abbracciamo forte. Sì, e poi voglio fare anche gli auguri, vabbè, ma questi casomai li faccio dopo, a Francesca, che è anche il suo compleanno, quindi, e poi il suo primo compleanno da mamma, quindi un compleanno particolare, un po' super. Particolare. E poi noi insieme facciamo anche un altro degli altri auguri, vero? Al mitico Facundo. Certo, questo non può mancare, anche perché approfitto che non c'entra niente, che anche ieri l'ho comprato il mio figlio. È vero, infatti, è vero, pure a tua, grande. Sì, e mi sono trovata, dopo tutti questi anni che sosteniamo questa lotta, che non lo sapevo neanche, che anche ieri era il compleanno del nostro compagno Facundo Wala. Ho visto il messaggio che ha scritto la sua mamma, molto bello, molto molto profondo, e mi è riempito di emozione. Salutare a Facundo di qua, Facundo ancora in carcere da più di 10 mesi, per portare avanti questa resistenza, questa lotta contro Benetton, non ha nessuna accusa legale, non ha nessuna motivazione specifica, solamente l'evidente persecuzione, ya che Benetton sappiamo che è molto amico di Macri. Facundo continua a essere incarcerato nel carcere di Schela in Patagonia Argentina, quindi personalmente penso che a nome della rete, che anche tu sei parte, Marta, dille a Facundo che noi siamo orgogliosi della sua coerenza, del suo coraggio, del coraggio che ci manda, della forza che ci manda, poi capito, lui a noi, e della forza che ci manda, perché alla fine è lui che con le sue parole, con il suo esempio di combattente Mapuche si insegna tanto, e mille volte si ripete che ci dobbiamo rivelare questo sistema oppressore, perché siamo delle persone libere e dobbiamo vivere come tale, e non avere paura, perché il potere comunque, con la solidarietà, con l'unione, con la lotta concreta la possiamo, con la lotta autonoma la possiamo sconfiggere, e che all'enemico non se le parla, che l'enemico se le distrugge. Quindi a Facundo tutto il nostro Neuen, da qua, da tutti noi della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, e che lui lo sa bene, come lo sa la comunità di Cusame, che noi siamo con loro e rivendichiamo tutte le sue forme di lotte, che sono legittime, sono valide in questa lotta anticapitalista. La resistenza non si processa, non si denuncia, sì. È resistenza. Allora sì, tanto Neuen per Facundo, io ti abbraccio forte, mando un abbraccio a Tupac. Grazie Marta.